Maybe she got some friends. What's her name? I don't know her name. Her name is Sharon. No, her name is Susan. Oh, I'm Susan. Right now, baby. Wait a minute, I think I can show over there, right? I'm in it now, girl. Yeah. Come on. What's your name, Diana? One, two, three, and... Thank you. Radio Plaza. E circa mi capì. Tanto tempo che non ti vedevo, eppure so contento. O sai, ma non fottuto che viaggi l'autostrada, tutto quello che c'è passato, ma non credere più, non credere più. E torna a casa stanco, morto, e non voglio fare niente, sto con l'occhio aperto e sento, e suona, suona. Provo a vedere con tinta all'occhio sola, ecco che sono tutta a parlare rivoluzione, grida ancora, grida ancora. E provo a vedere chi ti ha attaccato in mano e non ti può girare perché ti fanno male. Cerchiamo a capire, vorrei strappare mille occasioni e poi fuggir lontano, ma so scucciato di parlare e dire ogni volta quel che ho dentro e poi star male e poi suonare, suonare. Ma torna a casa stanca, morta, e non voglio fare niente, sto con l'occhio aperto e sento e canta, canta. E provo a vedere con tinta l'occhio sola, ecco che sono rotta a parlare rivoluzione. Cade male e non ti può girare perché ti fanno male e sono ancora. Ed eccoci a questa nuovissima puntata di Radio Plaza, Radio Plaza specialissima stamattina che comincia alla grande stamattina. Radio Plaza. Sì, sì, è Radio Plaza. Stamattina la sigla di Radio Plaza, a parte il free lunch time, insomma quella parte in cui uno ci si accomoda un po', si rilassa un po'. Abbiamo iniziato alla grande con Pino Daniele, signore e signori, Pino Daniele e Cercami e mi capì, dall'album Pino Daniele del 1979. E io nascevo in quell'anno. Nascevo e Radio Plaza invece nasce un po' più tardi, è un po' più giovane di me. Radio Plaza è questa. Questa è la voce di Anna. Questa è la mia voce, la sì, voce io Anna. Sono questa Anna. Questa invece è la mia voce. E questa è la voce di Carmine. E per chi non conoscesse Anna, riascoltare più volte e cerca i megapì di Pino Daniele. Ah, una dedica così alle 11 di mattina. Bene, eccoci, questa è Radio Plaza, noi siamo il collettivo Utopia. Collettivo Utopia più o meno alla mia età, più o meno, una ventina d'anni in meno. Radio Plaza, la radio che arriva in piazza, starnazza, dice, fa ascoltare estemporanea e poi va via, perché Radio Plaza è adesso e ora dal vivo, è in streaming su collettivoutopia.noblogs.org. Bene, iniziamo da un'altra citazione. Facciamo una citazione. Viaggi e miraggi di Francesco De Gregori. È una canzone di qualche anno fa. In questa canzone a un certo punto la strofa dice: bella ragazza, ma chi l'ha detto che non si deve provare? Ma chi l'ha detto che non si deve provare a provare? No, e questa io credo sia la sintesi perfetta del libro scritto da Anna Bruno che oggi sono presentiamo qui. Ah, sempre tu. Sempre io. Infatti qualcuno l'aveva detto, sembra che la voce di Anna sia come quella di Anna Bruno che ha scritto il libro. Vabbè, oggi sono il dono dell'ubiquità in questa giornata. Radio Plaza presenta il libro Hong Kong 2004 in una tazza di tè scritto da Anna Bruno per Coppola Editore. Una cartolina, un reportage, una metropoli contraddittoria nel racconto appunto di Anna Bruno. Sempre io. Sì, e noi siamo il collettivo Utopia, come abbiamo detto, e il collettivo Utopia ha invitato tutti quanti voi, quelli che stanno in piazza adesso e tutti quelli che ci stanno ascoltando in streaming su collettivoutopia.noblogs.org alla voce Radio Plaza, e ha invitato tutti quindi a questa presentazione. L'ospite particolare, l'abbiamo già detto più volte, è appunto Anna Bruno, l'autrice del libro. È particolare in quanto Anna Bruno, oltre a scrivere questo libro, è la fondatrice e voce portante, colonna e basta, colonna e basta, non esageriamo. Nodo di cordio di Radio Plaza. Però in particolare, diciamo, per quelli che non conoscono né te, né Radio Plaza, né il Collettivo Utopia, né la piazza di Marigliano, che ne so, si trovano a Lugano in questo momento e ci in stanno Indonesia, ascoltando. Abbiamo ascoltatori dall'Indonesia perché stamattina. È possibile, sì. E allora, visto che è Radio Plaza, visto che è Poi non ho finito. Ah, scusami, volevo andare avanti. Vabbè, dovete avere pazienza. Quanti minuti ho ancora? Vabbè, ce l'ho ancora. Allora, Anna Bruno è specialista in diritti umani e gestione dei conflitti ed è presente oggi qua ai microfoni di Radio Plaza, non a caso, visto che c'è sempre lei, estemporanea Radio Plaza per tutta la mattinata a parlarci di quando, com'è e perché le idee di rivolta non sono mai morte. Parleremo però dopo la musica, perché questa è Radio Plaza e si va in musica. Vi facciamo ascoltare a brevissimo un brano Nislebi del trio Mandili. Il nome del trio deriva dal Mandili, il tradizionale copricapo femminile georgiano a forma di sciarpa che le donne gettavano a terra quando volevano riconciliare gli uomini in conflitto. Evviva! Le origini della tradizione di canto polifonico georgiano, alla quale il repertorio del trio Mandili appartiene, sono antichissime. Si fanno addirittura risalire a partire dall'VIII secolo. Si usa il canto di lavoro, di guerra, di danza in Georgia, tanto che l'UNESCO ha riconosciuto questa tradizione musicale come patrimonio immateriale dell'umanità dal 2001. E allora ascoltiamolo, Nislebi del trio Mandili, dall'album Enguro 2017. Buon ascolto! Garek maurim dinari, kartan tu khili karebis, amagam vitiyan uris, nislab shigame barebi. Zetazem pare nam galas, isro gort kudi ar khodis, petrmazam tarma dam gala, gazap kuligi ar modis. Petrmazam tarma dam gala, gazap kuligi ar modis. Nakhet tam beberam inde, sikdili gada uitzat, Tatutrimer madam inde, shen ragag merti gagitram. Zetazem pare nam galas, isro gort kudi ar khodis, petrmazam tarma dam gala, gazap kuligi ar modis. Petrmazam tarma dam gala, gazap kuligi ar modis. Momikhmob chemi biligi, vitsamebs izmar takhteni, bivli bolomde boloski, nislis boloshi dakhdebi. Zetazem pare nam galas, is rogorc kudi ar khodis, etmazam tarma dam gala, gazap kuligi ar modis. La parola te deriva dalla resa c'è del carattere cinese cha nel dialetto meridionale diffuso nel sud del Fujian e a Taiwan. Da questa pronuncia cinese derivano con lievi varianti le parole per te in malese, danese, inglese, spagnolo, svedese, yiddish, ebraico, singalese, tamil, finlandese, francese, italiano, lettone, tedesco, olandese e ungherese. Dalle pronunce piuttosto simili del carattere cinese cha nei dialetti settentrionali e in cantonese derivano i nomi del tè in giapponese, coreano, persiano, arabo, turco, russo, portoghese, ceco, slovacco, serbo, albanese, urdu, uzbeko, ucraino, hindi, tibetano, thailandese e rumeno. Il tè è una bevanda originaria della civiltà cinese, consistente in un infuso o decotto, ricavato dalle foglie della Camellia sinensis, una pianta legnosa che viene oggi coltivata in Cina, ma anche in Bangladesh, Pakistan, India, Indonesia, Sri Lanka, Giappone e Kenya. A volte le foglie sono miscelate con spezie, erbe o essenze. L'uso e i cerimoniali del tè sono associati a differenti tradizioni rituali dell'Estremo Oriente, ma anche altri paesi sono noti per il consumo del tè. Inghilterra, Massachusetts, Russia, Turchia ne hanno fatto un elemento molto importante della cultura e della tradizione, e lo stesso può dirsi anche dei paesi arabi. Ma cosa succede in una tazza di tè? Allora, diciamo che il tè è stato utilizzato per le cose più disparate, tipo per combattere l'alito cattivo masticandone le foglie, oppure per rendere soffici i capelli dei neonati risciacquandoli con tè forte, e qualcuno addirittura disinfetta le ferite recenti con il tè. In generale, comunque, nel nostro caso specifico, però, viene assunto come bevanda che contiene una combinazione di caffeina, che è un alcaloide stimolante del sistema nervoso centrale, e polifenoli, tra cui i tannini. Contiene teanina, che è un amminoacido psicoattivo, catechina, che è un antiossidante presente soprattutto nel tè verde e nel tè bianco, poi c'è la teobromina e teofillina, che sono due alcaloidi sempre stimolanti, e infine floruli. Gli effetti quindi della bevanda dipendono dal tipo di tè e dalle modalità di infusione, quindi la temperatura e la durata di infusione. Per esempio, un'infusione breve che dura circa 2 minuti estrae dalle foglie di tè soprattutto caffeina e ha proprietà stimolanti, e quindi è una bevanda adatta da bere al mattino nei momenti di stanchezza. Un'infusione invece più lunga, che va tra i 3 e i 5 minuti, è l'ideale per il pomeriggio o la sera, poiché estrae l'acido tannico che disattivando la caffeina attenua l'effetto stimolante. Ma quante ne sai! E che cosa succede allora nel nostro organismo quando beviamo una tazza di tè? Allora, il tè non viene digerito solo dallo stomaco, ma prosegue il suo cammino verso l'intestino tenue, dove vengono scissi i polifenoli. L'abbiamo detto prima. Tecnicissimo! I polifenoli, quelli che cacciano il tannino, che disattiva la caffeina. Ma poi si interroghi anche dopo. Questo fa sì che quindi le sostanze arrivino più lentamente al cervello e al cuore, per cui l'effetto eccitante risulta più lento, ma anche più duraturo. E allora anch'io ne so qualcosa. Il tè nero e il tè verde provengono dalla stessa pianta. La diversità sta nei differenti trattamenti adottati per le foglie. Il tè verde, poiché è fatto con foglie non fermentate, rilascia più velocemente quei famosi polifenoli di qui sopra e restituisce di conseguenza un sapore amaro. Per evitare ciò si possono seguire alcune indicazioni, frutto di secoli di esperienza. Utilizzare per l'infusione acqua a circa 70-80 gradi, cioè bisogna far bollire l'acqua e dopo averla spenta aspettare circa 3 minuti prima di versare sulle foglie. Oppure fare l'infusione con l'acqua bollente e buttare via la prima bevanda mantenendo le foglie e rimetterle in infusione lasciandole da 2 a 5 minuti. E infine, solo per chi non lo sapesse, quando si prepara il tè bisogna sempre ricordare di mettere un coperchio sulla teiera per non disperdere dei preziosi oli essenziali. E allora, mentre aspettiamo che il nostro tè sia pronto, ascoltiamo ancora la buona musica di Radio Plaza e ci ascoltiamo dall'album Tabula Rasa Elettrificata del 1997 del CSI, Unità di Produzione. tassa troppo bassa, preme schiaccia, fucina di potere temporale. Sovrasta, efficienza di netto, burocratica casta, potenza del pesante, preme compatta, schiaccia, preme compatta, schiaccia, preme compatta, schiaccia. Sogno tecnologico, bolscevico. Fece poetico preparando due tazze di tè. La vita è fatta per essere felici. La vita è fatta per essere felici. D'alti e bassi è la vita. Sorge e tramonta il sole. Dunque, val tanto agitarsi, d'esser felici bramiamo. Vale altrui ciance temere, se fugaci sono gli eventi e non vi sono certezze. Prendi i frutti d'autunno al chiaro di luna sul fiume, dato che ricchi palazzi crollano con gran ruina. Fama, ricchezze, onori, tutti effimeri sono, come brina o rugiada dai riflessi perlati, tutti soggiacciono al fato, niente più impegni mondani. Val sognar ricche dimore, fama e nome ricercare, quando liberi canzoni cantate o arie strimpellate. Se incontrate la fortuna, trar vantaggio vi conviene. Con gli amici in riva al fiume fate allegre scampagnate, sotto i salici a pescare, scacchi e liuto vi portate. Libri e tele da ammirare sulla barca, invitate graziose fanciulle, storie antiche poi narrate e racconti a lieto fine, ammirando l'ornamento maestoso delle foglie e policromo dei fiori. Fan gli uccelli eco al liuto. Non curatevi degli altri se vi trattan con calore o con senso di freddezza. L'acqua limpida attingete dalla fonte che zampilla sotto i pini verde e blu. Sulla stufa di terraglia circondata da bambù bollirà l'acqua col tè del dragone e la fenice. Preparate la miscela prelibata, poi gustate le delizie delle sette tazze di Liutun, colmo del noto tè Yanxian. Radio Plaza, frequenze dinamitarde. Thank you. numbers go to sight. The system wins by. The river has run dry. The winds are blowing fly. Entriamo nel vivo di questa puntata, di nuovo puntata di Radio Plaza qui dal vivo a Marigliano. Sono le 11:24 di questa domenica 26 novembre 2023. Radio Plaza oggi presenta a Marigliano il libro Hong Kong 2004. Vado a vedere il titolo nel caso me lo dimentico e vi racconto un po' di questo libro della casa editrice, due parole e poi si entra nel vivo. La casa editrice è la Coppola Editore. Dopo la morte di Salvatore Coppola nel 2013, Rosario Esposito La Rossa e Maddalena Stornaiolo rilevano la casa editrice Coppola Editore, una casa editrice indipendente, oggi siculo campana, una casa editrice terrona, orgogliosamente terrona. Un'impresa fondata da Salvatore Coppola a Trapani nel 1984, con uno sguardo attento al territorio, agli scrittori contemporanei e ai temi della legalità. Nel catalogo, tra le tante diavolerie, c'è una collana dal titolo Cartoline, ed eccoci qui, proprio Hong Kong 2004 è una di queste. Si tratta di brevi storie che raccontano un anno particolare in un posto del mondo, frammenti di storia mezzo posta, perché il formato è proprio quello di una cartolina e può essere spedito proprio come una cartolina, per lettori sempre in viaggio, qualsiasi tipo di viaggio. Coppola Editore è anche Marotta e Cafiero Editori, giovane casa editrice indipendente. Dal sito appunto marottaecafiero.it si legge: una casa editrice terrona made in Scampia, che stampa letteratura stupefacente, narrativa civile, storie del sud del mondo. Libri completamente ecologici, su carta riciclata certificata, con inchiostri non inquinanti e colle senza plastificanti, a chilometro zero e ad alta leggibilità. Marotta e Cafiero è anche La Scugnizzeria, la prima libreria di Scampia e Melito. La Scugnizzeria poi è la casa degli Scugnizzi, un luogo dove la porta è sempre aperta, è una moltitudine, una bottega, un bazar. La prima enolibreria dell'area nord di Napoli, dove si vendono libri di case editrici indipendenti, ma anche vino locale, miele artigianale, riso, prodotti tipici artigianali, audiolibri, book, CD musicali, vinili e bomboniere solidali. È un luogo dove trovare oggetti creativi low cost. La Scugnizzeria, tra le altre cose, è anche l'Ospedale dei Libri, un laboratorio di restauro di libri per l'infanzia, un luogo dove si riparano i libri, si aggiustano le storie, un orfanotrofio per volumi destinati al macero. Per tutto quello che io vi ho detto è solo una piccolissima parte di tutto quello che fanno alla Marotta e Cafiero, alla Scugnizzeria, alla Coppola Editore. Trovate tutto online su marottaecafiero.it, su madeinscampia.it e su coppolaeditore.it. E allora, come vi dicevo, andiamo nel vivo della presentazione di questo libro Hong Kong 2004 in una tazza di tè. Oggi ascolteremo le testimonianze di alcune delle protagoniste di Hong Kong 2004. Storie vere, persone incontrate vere per davvero, un po' romanzate dalla penna di quell'autrice lì, quella che abbiamo detto prima. Seguiremo le loro storie e ci faremo dire da dove sono arrivate. E quindi partiamo con la prima. La prima storia è la storia di Dolma. Ascolteremo un audio in cui Dolma, appunto, la troverete tra le pagine del libro insieme a suo fratello Sonam, per l'esattezza a pagina 60, per chi volesse già cominciare a conoscerla. Conoscerete la storia della loro famiglia e lei ci racconterà che cosa è successo dopo. Questa è la sua voce. Quelle è la radio che tu écoutes? Radio Plaza, évidemment. Eccomi qui a scrivere questa lettera e posso farlo, credo, solo perché mio padre mi ha dato quella foto. Sì, quella foto ci ha salvato. Prima di partire, papà ci aveva detto che se ci fossimo trovati in difficoltà avremmo dovuto cercare l'uomo nella foto e per fortuna l'abbiamo trovato e poi tutto è andato bene. Quando siamo arrivati qui, a Dharamsala, nel nord dell'India, io e mio fratello abbiamo potuto studiare e sentirci liberi, ma con un grande vuoto nel cuore. I nostri genitori ci mancano, non sappiamo nulla di loro e non li vediamo dal giorno in cui siamo partiti clandestinamente. Non avevamo niente con noi, qualche pezzo di pane e formaggio e una foto di me e mio fratello con un soldato cinese. Il viaggio è stato anche abbastanza divertente. Ci siamo nascosti tra le balle di fieno di un camion e abbiamo giocato a farci il solletico. Fino a quando un gruppo di soldati cinesi non ha fermato l'autista. Gli ha chiesto di scendere e ha controllato il carico. Ci ha trovati. Abbiamo avuto molta paura. Hanno controllato quel poco che avevamo e hanno trovato la foto. Uno dei soldati l'ha presa, l'ha guardata con attenzione e l'ha mostrata ad un altro soldato. Hanno cominciato a parlare nella loro lingua, noi non capivamo niente, ma i toni non ci sembravano cattivi come prima. Poi sono tornati verso di noi, ci hanno detto qualcosa, noi non abbiamo capito, abbiamo sentito il nome di quel signore che il nostro padre ripeteva spesso. E abbiamo solo fatto di sì con la testa. Pochi attimi di silenzio e quei soldati ci hanno lasciati liberi. Hanno fatto finta di non aver visto e ci hanno fatto andare via. Io non so cosa si siano detti. Non so chi fosse davvero quell'uomo nella foto. So solo che ci ha salvato. Adesso io e mio fratello stiamo bene, studiamo. Lui ama la matematica e la biologia. Dice che da grande vorrebbe diventare un astrobiologo, ma io ancora non ho capito cosa sia. Io ho tanti sogni e tante speranze, e tra queste ce n'è una che mi fa battere forte il cuore. Sogno di vedere un giorno il Tibet, la mia terra libera. Radio Plaza! Chiamano coscienza popolare ed è una febbre insolita. Offende la ragione ed alimenta ideali di uguaglianza. Non lascerò che questa orrenda epidemia contagi gli animi. Diffonderò il terrore tra il mio popolo e brandirò lo scettro contro ogni ritrosia. La notte guarda e non consiglia, trascina sgomento ed ingombranti ore, un buio cieco come rabbia, come agonia. Maestà cerca quiete tra i guanciali di seta, cerca il sonno dei giusti tra marmi preziosi e soffitti affrescati, cerca un'osi di pace per l'anima. ha già morso il padrone, di certo un giorno o l'altro proverà a rifarlo. La notte è un precipitare senza piglio, l'attrito stridente di incubi e rimorsi, un vuoto d'aria e di speranza, di lucidità. Sua maestà cerca quiete tra i guanciali di seta, cerca il sonno dei giusti tra marmi preziosi e soffitti affrescati, cerca un'oasi di pace per l'anima così distante da dimenticare la maniera brutale con cui ha preteso devota obbedienza. Finalmente, io direi, Carmen Consoli su Radio Plaza, perché ricordiamo, questa è Radio Plaza, questa siamo a Marigliano. Oggi è 26 novembre. Sono le 11:35 e abbiamo ascoltato, sta arrivando il sole, ma proprio di più, dall'album Eva contro Eva, un album bellissimo per chi non lo conoscesse, del 2006, Carmen Consoli, Piccolo Cesare. E su questo sottofondo invece andiamo ad ascoltare la prossima testimonianza. Avremmo dovuto fare una telefonata in diretta stamattina con lei, ma purtroppo per impegni suoi, per fortuna, non siamo riusciti a sentirci in diretta, e quindi abbiamo deciso di registrare anche questa telefonata. Lei è Dilnur, la incontrate a pagina 78 di Hong Kong 2004 in una tazza di tè. Perché ricordiamo a quelli che si sono messi in questo momento in collegamento su collettivoutopia.noblogs.org in streaming per questa trasmissione diretta qua da Marigliano di stamattina, trasmissione radio? Trasmissione di Radio Plaza. Trasmissione radio, esatto. Sì, che stiamo presentando il libro Hong Kong 2004 in una tazza di tè di Anna Bruno, scritto per Coppola Editore. Questa è Radio Plaza e siamo in diretta. Io sono Anna Bruno, eccomi qua. E allora, sappiamo di Dilnur appunto dalle parole di suo padre, e poi all'improvviso così la ritroviamo in Francia, dove io l'ho raggiunta. Ascoltiamo le sue parole. Pronto Dilnur, buongiorno! Buongiorno, ciao Anna, grazie di avermi chiamata. Buongiorno a te, grazie a te per aver accettato di parlare oggi con me. So che sei molto impegnata, non ti rubo tanto tempo, quindi arrivo subito al punto. Ricordo che tu sei partita qualche anno fa dalla tua regione, il Xinjiang, consapevole del fatto che forse non ci saresti ritornata mai più. E adesso vivi in Francia ed insieme ad altre persone uigure hai fondato un'organizzazione per la difesa dei diritti del popolo uiguro, appunto, Vuoi raccontarci di te? Vuoi raccontarci come stanno le cose? Mais oui, sì, sono partita dalla mia terra perché non vedevo nessuna alternativa possibile se non questa. Adesso vivo in Francia con mio marito e mia figlia. Ho studiato, mi sono laureata e adesso sono un'avvocata. Mi occupo di diritti umani e continuo a seguire la causa della nostra regione, del popolo uiguro, insieme ad altre donne e uomini uiguri. Abbiamo fondato un'organizzazione e siamo riusciti a ottenere un piccolo risultato. 2 anni fa l'Assemblea Nazionale Francese ha adottato una risoluzione in cui viene denunciato il genocidio della popolazione uigura da parte della Cina. Mi verrebbe da dire bene, ma non tanto bene in realtà. Comunque, facciamo un attimo capire di cosa stiamo parlando. Raccontaci un attimo dove si trova questa fantastica regione, il Xinjiang, e chi sono gli uiguri, il popolo uiguro? Bien sûr, sì. La nostra regione si trova ai confini della grande terra di mezzo, la Cina. Gli uiguri sono un'etnia turcofona di religione islamica. Se pensiamo all'intera Cina, noi siamo pochissimi, ma Pechino ci controlla strettamente. Nelle nostre città abbiamo telecamere dappertutto, le famose telecamere a riconoscimento facciale, e di molti di noi conoscono anche il DNA per una maggiore tracciabilità in casi che loro chiamano sospetti. Tutto nascosto sotto la bandiera della lotta al terrorismo. E se invece quello che interessasse veramente fosse il petrolio, il gas e il carbone? Intanto dal 2017 nella nostra regione sono nati dei veri e propri campi di concentramento che il governo di Pechino chiama campi di rieducazione per riformare i cittadini. Ma poi, cosa significa riformare? Cancellare l'identità uigura? Sterilizzare uomini e donne così che non possono più nascere bambini e bambine uigure? Fare lavaggio del cervello e far recitare a memoria testi su quanto sia grande e generosa la Cina? Queste sono tutte domande alle quali stiamo cercando forse di dare una risposta. Forse la risposta già c'è, io ho un'idea in merito, ma volendo rimanere sulla vostra organizzazione, appunto l'organizzazione del popolo uiguro, l'organizzazione ha l'obiettivo di far conoscere al mondo quello che sta succedendo a questo popolo. Siete tutti molto uniti in questa battaglia, anche se di voi nel mondo, in Italia anche, si parla ancora molto poco. Vuoi aggiungere qualcosa prima di salutarci? Sì, con molto piacere. Il nome uiguri significa coloro che stanno insieme, e noi qui da lontano siamo ancora insieme a tutte le persone uigure che sono rimaste in Cina, che vivono senza libertà e che continuano a subire maltrattamenti, per usare un eufemismo, da parte del governo cinese. Ci fa molto piacere che qualcuno ascolti quello che abbiamo da dire, e lo diremo a voce ancora più alta se sarà necessario, anche a rischio di far arrabbiare il grande dragone. Grazie mille, Dilnur, davvero grazie per questa tua testimonianza. Ci fa piacere aver portato la tua voce qui a Radio Plaza oggi in questa giornata così speciale, e magari ci vedremo presto. Grazie ancora. Grazie a te, Anna, e grazie a tutti voi. A presto. A presto, ciao. E allora torniamo in diretta dopo aver ascoltato la voce di Dil Noor, iperrealistica la voce di Dil Noor. E diciamo questo, allora, in sottofondo stiamo ascoltando Uyghur 12 Mukams con il brano Uzal Mukam, che appunto prefigura quello che ascolteremo un po' più avanti in questa diretta radio di presentazione del libro Hong Kong 2004. Diciamo questo, uno dei simboli più lampanti della cultura uigura è l'arte del mashrap. Mashrap inclusa nella lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di urgente tutela nel 2010. La composizione più famosa della musica uigura è la On Ikki Mukam, una complessa suite di 12 sezioni con riferimenti a forme musicali uzbeke e tagiche. I tipici strumenti della composizione Mukam sono percussioni, violini, liuti e salteri. Ne ascoltiamo una parte. E allora siamo qui in piazza Mariano, piazza Pippa, piazza Municipio, detta anche piazza Municipio. I marianesi la chiamano la piazza delle Pipparelle o Ngoppe Piazzette. Non ci ne frega niente, ok. E quindi questa è Radio Plaza, appunto una radio estemporanea che appare in piazza senza motivo a volte, ma con molta motivazione. Ed eccoci qui da una piazza all'altra, quindi da questa piazza ci colleghiamo direttamente a piazza Tiananmen, che non è napoletano, è cinese. Però Tiananmen di piazza Tiananmen è importante, perché piazza Tiananmen in cinese significa la porta della pace celeste. Perché okay, sento sarcasmo in questa cosa, non, non c'è nessun motivo per essere sarcastici nei confronti di Mao e dei suoi concittadini, connazionali, compatrioti, compagni, eccoli là. Bene, allora andiamo quindi avanti con il nostro programma radiofonico Radio Plaza, qui in piazza Mariano. Oggi ci sono 3 gradi. Boh, 4, 5, 6, il sole 8 gradi. Siamo arrivati a 8, 9 gradi. Fa un po' freschino. Perché sto perdendo tutto questo tempo inutilmente? Perché questa sempre è Radio Plaza ed è così, sarà così. Irritante a volte. Ogni tanto si sente anche la voce del Salomone lontano da noi. Allora andiamo avanti. Quindi adesso tra poco ascolteremo le... Ho cambiato tono, se ve ne siete accorti? Segui il copione. Diventa un po' più serio, diciamo. Oh, guarda, senti che basso. Wow, addirittura... Allora, sì, segue il copione. Allora, 4 giugno 1989, piazza Tiananmen a Pechino. Bellissima, io l'ho vista, enorme, gigantesca. E ci sono migliaia e migliaia di giovani in protesta per la democrazia e il governo cinese, allora, reprime nel sangue quella protesta e poi non se ne può più parlare. Viene completamente cancellata dalla memoria dei cinesi che poi arriveranno nelle generazioni successive, ma un movimento di donne, le madri di Tiananmen, da sempre lotta per la verità per quei giorni. Di loro ormai non è rimasta quasi più nessuna, gli anni sono passati, ma le loro voci non si spengono perché restano ancora le mogli e i figli di quella generazione uccisa quella notte sotto i cingoli dei carro armati. Sentiamo la testimonianza di una di loro. Noi siamo le madri di Tiananmen. Siamo un'organizzazione di superstiti e dei familiari delle vittime del 4 giugno. Quello che chiediamo lo possiamo racchiudere in tre parole: verità, risarcimento e responsabilità. Verità perché dopo più di tre decenni il 4 giugno è ancora considerato un tabù in Cina. Nessuno ne parla, i giovani non devono sapere. Le dure misure di controllo delle autorità hanno lasciato i sopravvissuti a quel massacro con dei rimpianti. Alcuni di coloro che sono ancora in vita ritengono che il Partito Comunista Cinese sia ancora responsabile di questa tragedia storica, anche se tutte le persone all'interno del partito sono cambiate. Nessuno si assume la responsabilità, nessuno condanna, nessuno critica, nessuno si fa delle domande. Il governo cinese ha sempre evitato di assumersi la responsabilità della tragedia. Oggi i membri del partito sono quasi tutti cambiati, ma anche se l'attuale governo potesse pensare di non avere nulla a che fare con l'ordine di sparare all'epoca, direi che il partito al potere è il Partito Comunista e l'attuale governo dovrebbe pendersi, assumersi la piena responsabilità di dire alla gente tutto quello che è successo all'epoca. Tutto è successo e scomparso quella notte stessa. Le manifestazioni di massa a Pechino si tennero dal 15 aprile al 4 giugno del 1989, ma l'epilogo più triste è successo proprio la notte del 4 giugno 1989. È da allora che chiediamo verità e giustizia. Il 4 giugno 1989 mio marito fu ucciso con un colpo di pistola mentre si recava da solo in piazza Tiananmen a Pechino, lasciando me e nostro figlio di un anno e mezzo. Come lui, moltissimi altri, soprattutto giovani, sono stati brutalmente uccisi e degli scomparsi neanche si parla. Dopo 34 anni io continuo a parlare, ma ormai tra sopravvissuti e familiari dei morti di quella piazza anche noi siamo rimaste in poche. La paura più grande è che il tempo passi e il governo aspetti che nessuno più si occupi di questa storia. Così avrà risolto un altro problema. Quest'anno, come ogni anno, organizziamo degli eventi in occasione dell'anniversario del 4 giugno e ogni anno, prima dell'anniversario di questo tragico evento, aumentano i controlli. Anche quest'anno, prima del 34esimo anniversario dell'incidente del 4 giugno, la polizia in molte parti della Cina ha richiesto indagini sui telefoni cellulari degli adolescenti. Così aumenta la paura e cresce il disinteresse per evitare problemi. Si sa che oggi in Cina avere anche solo una brutta nomea o essere giudicato come persona sgradevole diventa un fardello anche per l'ammissione all'università. Quest'anno poi anche ad Hong Kong c'è stata una veglia a lume di candela il 4 giugno, organizzata dall'Alleanza di Hong Kong a sostegno dei movimenti patriottici democratici cinesi. Il governo non è stato molto contento, ma se i cittadini di Hong Kong sono cittadini cinesi, allora è un loro diritto di cittadini denunciare lo spargimento di sangue di quell'anno attraverso le veglie a lume di candela e chiedere verità, perché una cosa del genere non debba succedere mai più e per questo li ringraziamo. Radio Plaza. Thank you. E ritorniamo in diretta su Radio Plaza qui in Piazza Municipio a Marigliano per la presentazione di questo libro Hong Kong 2004 in una tazza di tè. E abbiamo ascoltato i Gorillaz in questo momento, Gorillaz dall'album Plastic Beach del 2010, il brano era To Bing. Perché non lo volevi dire? No, lo volevo dire, non volevo dirlo male. E chi ti garantisce che io l'abbia detto bene? Questa poi è... Nessuno, però mi fido. E quindi mi fido anche del fatto che il fulcro, diciamo così, il centro, il... Il colon del libro. Oddio, proprio brutta detta così, eh? Il colon è una parte importante dell'organismo. Vabbè, comunque... Diciamo l'interno del libro è tutto il filo rosso che conduce il lettore a sfogliare questo libro di Anna Bruno, sono i diritti umani. Eh sì, è una panoramica intorno alla situazione dei diritti umani. Parto da Hong Kong, ma poi giro un po' per la Cina. Ma la situazione dei diritti umani nel mondo negli ultimi anni continua ad aggravarsi e si aggrava ancora di più perché ci sono doppi standard e risposte inadeguate proprio alle violazioni dei diritti umani, che alimentano impunità e instabilità, come nel caso dell'assordante silenzio sulla situazione dei diritti umani in Arabia Saudita o dell'uso di pesanti tattiche da parte della Cina per impedire l'azione internazionale sui crimini contro l'umanità che ha commesso, così come il fallimento delle istituzioni regionali e internazionali favorito dagli interessi egoisti degli stati membri di fronte alle migliaia di uccisioni in Etiopia, Myanmar e Yemen. Gli Stati Uniti poi condannano ad alta voce le violazioni dei diritti umani russe in Ucraina e hanno accolto decine di migliaia di ucraini e ucraine in fuga dalla guerra, ma le loro politiche e prassi razziste contro i neri continuano a causare e causano l'espulsione, soprattutto tra il 2021 e il 2022, di oltre 25.000 persone fuggite da Haiti, sottoponendo molte di esse a torture ed altri maltrattamenti. Per non parlare poi di quello che succede ai confini con il Messico. Gli stati dell'Unione Europea hanno aperto le frontiere alle persone in fuga dall'Ucraina e allo stesso tempo molti di quegli stati hanno chiuso le porte a chi fuggiva dalla guerra e dalla repressione in Siria, Afghanistan e Libia. Giornalisti sono stati imprigionati in Afghanistan, Etiopia, Myanmar, Russia, Bielorussia e in decine di altri stati del mondo dove erano divampati i conflitti. In Australia, in India, in Indonesia, nel Regno Unito le autorità hanno introdotto nuove leggi per limitare le manifestazioni. E sta succedendo anche qui da noi, attenzione. Mentre lo Sri Lanka ha fatto ricorso ai poteri dello stato d'emergenza per stroncare le proteste di massa contro la crescente crisi economica. Le norme entrate in vigore nel Regno Unito hanno dato alle forze di polizia poteri molto ampi, compreso quello di vietare proteste rumorose, compromettendo così la libertà di espressione e di protesta pacifica. E la tecnologia è stata utilizzata come arma per diffondere disinformazione o per ridurre al silenzio e impedire le proteste. In Iran le autorità hanno risposto con la forza illegale a una sollevazione senza precedenti contro decenni di repressione, ricorrendo a proiettili vere, pallottole di metallo, gas, lacrimogeni e pestaggi. Sono state uccise centinaia di persone, tra cui decine di minorenni. Anche le forze di sicurezza del Perù a dicembre hanno usato la forza illegale, in particolare contro nativi e campesinos, per stroncare le proteste seguite alle crisi politiche scaturite dalla deposizione dell'ex presidente Castillo. E poi giornalisti, difensori dei diritti umani, oppositori politici hanno subito repressione in tantissimi stati, per citarne qualcuno, lo Zimbabwe e il Mozambico, di cui si parla troppo poco. E poi ci sono le guerre in corso. Si parla troppo poco dei gruppi armati che riemergono e commettono atrocità. In almeno 15 conflitti armati, tra cui Repubblica Democratica del Congo, Camerun, Etiopia, Mozambico, Mali, Burkina Faso e Sud Sudan, forze governative e gruppi armati non statali sono stati coinvolti in abusi contro i civili. In molte parti dell'Africa gli sfollati interni, rifugiati, migranti sono stati cacciati dalle loro case da conflitti armati, repressione, violenza comunitaria, povertà e fattori ambientali. La repressione del dissenso e gli approcci incoerenti ai diritti umani hanno avuto un profondo impatto sui diritti delle donne. È finita così? No. Non è finita ancora. Non finisce. E in Polonia attiviste sono finite sotto processo per aver aiutato donne ad avere accesso a pillole abortive. Le donne native hanno continuato a subire in modo sproporzionato alti livelli di stupro e alte forme di violenza sessuale. In Pakistan ci sono stati diversi omicidi di donne da parte dei familiari, ma il Parlamento non ha approvato la legge sulla violenza domestica di cui si stava discutendo dal 2021. In India sono rimasti impuniti i casi di violenza contro le donne e altri ulteriori crimini di odio contro le caste. In Afghanistan, a seguito di una serie di editti emessi dai talebani, c'è stato un grave arretramento dei diritti delle donne e delle ragazze all'autonomia personale, all'istruzione, al lavoro e all'accesso agli spazi pubblici. In Iran, la polizia morale ha arrestato Mahsa Zina Amini, poiché aveva una ciocca di capelli fuori dal velo. Alcuni giorni dopo è morta a seguito di tortura. La sua morte ha dato vita a proteste nazionali in cui molte altre donne e ragazze sono state arrestate, ferite e uccise. E in Italia, in occasione dell'esame periodico dell'Italia svoltosi a fine settembre, il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti economici, sociali e culturali ha espresso preoccupazione per il limitato godimento dei diritti da parte di migranti, richiedenti asilo e rifugiati, per l'approccio punitivo adottato nei confronti dei lavoratori dell'economia informale, per le pratiche di sfruttamento nell'agricoltura e nell'edilizia e nell'industria tessile e dell'abbigliamento, in particolare nei confronti dei lavoratori migranti, compresi quelli privi di documenti. Il Comitato ha inoltre espresso preoccupazione per il persistere di alti tassi di povertà, per l'inadeguatezza del sistema pensionistico e dei sussidi di disoccupazione, per i diritti dei gruppi svantaggiati ed emarginati alla sicurezza alimentare, all'alloggio e alla protezione dalla discriminazione. Non solo, anche per i diritti delle donne e per l'aumento di casi di intolleranza e discriminazione. Comunque, non mancano poi problemi sul ruolo della legge e sulla protezione dei diritti dei bambini. Poi parliamo di Palestina. Per i palestinesi della Cisgiordania occupata, Cisgiordania occupata. Sì, perché ci si dimentica di questa cosa. Sono almeno 30 anni che sentiamo parlare di territori occupati. E mentre basta così. Per i palestinesi della Cisgiordania occupata. Una volta che la potevi dire una cosa buona. L'ho detta. Il 2022 è stato uno degli anni più mortali da quando nel 2006 le Nazioni Unite hanno iniziato a registrare i numeri delle vittime. Il governo israeliano ha in programma una grande espansione degli insediamenti illegali nella Cisgiordania occupata. Il blocco israeliano della Striscia di Gaza, che dura da 16 anni. Questo è un segnale. E la politica di insediamento in corso in Cisgiordania sono fattori chiave che hanno contribuito a far sì che almeno quasi 3 milioni di palestinesi, di cui il 50% sono bambine e bambini, vivessero costantemente il rischio di conflitti e violenze, attualità, sfollamenti e negazione dell'accesso ai mezzi di sussistenza. Il blocco di Gaza è uno degli impatti più duri del conflitto nei territori orientali e punisce gli abitanti di Gaza con quella che è stata descritta come la più grande prigione a cielo aperto del mondo, con un grave impatto sui diritti civili, politici, economici, sociali e culturali del popolo palestinese. La situazione palestinese può essere risolta attraverso la democrazia e il riconoscimento dei diritti del popolo palestinese, secondo alcuni, non attraverso metodi violenti. L'approccio violento non farà altro che aggravare i problemi. E il quadro amaro che è emerso negli ultimi giorni è il risultato del fatto che il problema palestinese è stato spinto verso una situazione praticamente irrisolvibile. Ma alternative sostenibili provenienti da realtà estranee allo Stato moderno esistono, anche se sono ancora tenui, tenute invisibili dalle grandi corporazioni dei media privati e statali, che preferiscono continuare con controversie che avvantaggiano solo piccoli poteri. Per esempio, i casi di lotta degli ultimi decenni del movimento zapatista, l'Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale, ZLN, in Messico, e del movimento curdo, cioè il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, il PKK, sono un chiaro esempio di come sia possibile costruire forme di organizzazione orizzontale, non statale, dove le opinioni ecologiste, anarchiche, indigene, femministe e anticoloniali convergono dalle stesse basi. Entrambe le esperienze potrebbero diventare un orizzonte sostenibile per molti popoli oppressi e resistenti nel mondo, come ad esempio i palestinesi. Succederà quello che succederà. Il governo israeliano dichiarerà di aver inferto un duro colpo al terrorismo, nasconderà al suo popolo l'entità del massacro. I grandi produttori di armi avranno guadagnato un po' di respiro economico per affrontare la crisi. E l'opinione pubblica mondiale, quella entità malleabile e sempre uguale a se stessa, si girerà dall'altra parte. Ma non solo. Succederà anche che il popolo palestinese resisterà e sopravviverà e continuerà a lottare, continuerà a ricevere solidarietà dal basso. E forse sopravviverà anche un ragazzo o una ragazza di Gaza. Forse cresceranno e con loro il coraggio, l'indignazione, la rabbia. Forse diventeranno soldati o miliziani di uno dei gruppi che combattono in Palestina. Forse combatteranno contro Israele. Forse lo faranno sparando con un fucile. Forse si immoleranno con una cintura di candelotti di dinamite intorno alla vita. E allora, dall'alto, scriveranno della natura violenta dei palestinesi e condanneranno la violenza e il dibattito tornerà schiacciato tra sionismo e antisemitismo. E nessuno si chiederà chi ha seminato quello che stiamo raccogliendo. E facciamo una bella pausa musicale, diciamo anche a tono in questo momento, parlando di Palestina. Ci ascoltiamo un brano di Enzo Avitabile con la palestinese Arnal Murkus. Il brano si intitola Canta Palestina ed è tratto dall'album Salvam Mumun, di cui non ricordo però l'anno, è un problema. Salvam Mumun. Enzo Avitabile sì. è sempre presente, è un album senza fine. Enzo Avitabile e i Bottari di Portico di Caserta. Li allora, conosciamo, volevo, noi li conosciamo. Li conosciamo. Volevo fare questa precisazione, il brano è dedicato a Vittorio Arrigoni, che è un attivista per i diritti umani, giornalista e scrittore, ucciso in Palestina nel 2011 dalle milizie jihadiste salafite. Come so av deste la Betlehem, come so av deste. E come son a fumare Stephanes, come son a fumare Stephanes, thank you. E canta, canta, canta, canta con tambur. E canta, canta, canta, canta Palestina, canta la speranza, e che speranza cam, risperata non muore. Betlehem, come son fuse giù a Betlehem, come son fuse giù. Io sono la luna mesca ne color, o sono la luna mesca ne color, o sono la luna. E canta, canta, canta, canta con tambur. E canta, canta, canta, canta Palestina, canta la speranza, e che speranza campa, risperato non muore. Palestina. questa puntata di Radio Plaza specialissima stamattina, 26 novembre 2023, in diretta da Piazza Municipio a Marigliano e in streaming su collettivoutopia.noblogs.org. Dicevo, anche questa puntata dedicata al libro Hong Kong 2004 in una tazza di tè sta andando verso la chiusura. Anche questa è durata troppo poco, dobbiamo fare puntate più lunghe, noi ci divertiamo. Allora ringraziamo Luca Lion che passa adesso per la piazza, ringraziamo Giovanni Salomone per la presenza e la kefia che indossa, e ringraziamo il collettivo Utopia che rende possibile questa forma di lotta simbolica e incomprensibile ma assolutamente necessaria qui a Marigliano e in tutto il mondo, visto che diciamo nello streaming, con lo streaming possiamo andarcene in giro per il mondo. Salutiamo gli ascoltatori, che abbiamo degli ascoltatori affezionati da... Allora oggi ne avremmo probabilmente provincia di ma ti piace? Ma mi piace proprio. Ti piace infilarti diciamo da sotto o io che mi accavallo su? Non lo so. È un gioco che alla fine ti piace sempre fare. Ascoltatori da tutto il mondo oggi, da tutto il mondo. Qualcuno mi ha chiesto, ma dall'Indonesia? Dall'Indonesia, ne abbiamo uno dall'Indonesia sicuro, un altro probabile dalla Bulgaria, probabile, chissà, ci starà ascoltando, immagino. C'è la radio in Bulgaria, una radio bulgara, una bella radio qualcuno bulgara. Qualcuno addirittura dalla lontana Lucania, anche la Lucania ci ascolta. Buongiorno a Fabrizio. E allora saluti anche a Fabrizio Brizzi Brazzi, lo chiamavano nella malavita. L'autore delle nostre migliori virgole, diciamolo. Sì, è la voce delle nostre migliori virgole fino ad oggi, finché non ne inventeremo delle altre. Ringraziamo le persone, anzi ringraziamo il raggio di sole che sta proprio in quell'angolino di piazza che sta riscaldando tutte le bellissime persone che stamattina sono venute a sostenere questo mio piccolo progetto. Grazie mille, grazie. Sì, ringraziamo anche Rino Malinconico che passa adesso per la piazza, non sa cosa sta succedendo, ma credo che si sia perso un grande spettacolo che è Radio Plaza. Ma Radio Plaza tornerà in piazza ancora una volta, perché Radio Plaza è la radio della piazza. Poi volevo fare un grandissimo ringraziamento a Sara Saretta Bruno, la quale, avendo 15 anni, diciamo, si sarà annoiata completamente oggi qui a stare in piazza, perché è una cosa a cui siamo poco abituati, quello di arrivare in una piazza, occuparla soprattutto, occupare la piazza. E ascoltare, sì. L'ho vista che ascoltava. Ascoltare storie di diritti umani, poi. Che gran divertimento per un quindicenne abituato a me contro te. Noi invece non siamo contro, siamo insieme, no? Perché noi siamo simbolici. Simbolico significa mettere insieme. E noi siamo anche lunghi, direi. Siamo lunghi in questa fine puntata. Un minimo di cultura. Non la vogliamo proprio chiudere, ma invece dai, chiudiamola qui. No, io non la voglio chiudere. Volevo fare addirittura anche un'altra aggiunta. Ringraziamo pure i ragazzi e gli adulti che hanno organizzato questa... Le persone che stanno dall'altra parte della piazza. Facciamo... No, vuoi dirlo tu, Fabrizio? Fallo tu. No, dillo tu, Fabrizio. Sì, allora praticamente ci sta Irene 95, che è un'associazione qua sul territorio, lontana da noi, ma comunque diciamo che condivide i nostri temi, più o meno, diciamo così. Viene da un'area cattolica, quindi in qualche modo diciamo è molto moderata come posizione. E quindi invece noi siamo invece anta. No, siamo tanto. No, anta. Siamo tanta roba. Siamo tanta roba. E volevo ringraziare anche Vincenzo e Andreina che vengono addirittura dal Nolano. Dal Nolano ne vengono parecchi. Tante, Claudio. Abbiamo un po' di Alberto. Gente dal Nolano. E addirittura ci sono i nostri dirimpettai. Addirittura i dirimpettai. E se arrivano i dirimpettai vuol dire che ci siamo tutti. Siamo arrivati addirittura in certi ambiti veramente. Sì, ci siamo. Territori incalpestabili. Sta per finire anche il sottofondo, quindi la chiudiamo qui. La chiudiamo, ringraziamo ancora chi ha partecipato a questa splendida puntata di Radio Plaza, chi sostiene questo progetto Hong Kong 2004 in una tazza di tè. Leggete e fatemi sapere. Radio Plaza. E la vogliamo smettere qua proprio? Sento applausi, sono finti gli applausi? No, sono veri. Vediamo se aumenta. Aumenta anche, quindi addirittura sono ancora più veri. Sento entusiasmo! Grande Napoli! E allora, visto che Carmine proprio non ce lo vuole dire... No, ci salutiamo con l'ultimo brano in scaletta. Sì, lo presento io, va bene? Vai. E allora ci ascoltiamo Miles Davis. E vai. Un nome e una garanzia. Miles Davis, un nome, una garanzia. Il brano si chiama Mr. Pastorius ed è scritto da Marcus Miller ed è inserito nell'album Amandla. Segnate bene, Amandla del 1989. Tu avevi 10 anni. Io ero piccola. Tu avevi 10 anni e loro già facevano questa roba che tra poco ascolteremo. Loro, tutta questa gente. Posso citare qualcuno? No, ascoltiamo il brano. Miles Davis, questa è Radio Plaza. Questa è la voce di Carmine Anna. E poi c'è Vladislav von Vegan alla regia. E ringraziamo anche la nostra compagna Rita. Rita al banchetto. E tutte le persone. Al banchetto del Collettivo Utopia. Collettivo Utopia, formazione diciamo fantasmagorica della fantapolitica marianese. Seguiteci su collettivoutopia.noblogs.org. Evviva la libertà! Thank you. Uh-huh.